in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Sono diversi gli argomenti che questa mattina i giornali scelgono per dedicare i loro titoli principali. Andiamo dalle polemiche che sono seguite alla tragedia di Lampedusa, le polemiche sul funzionamento, sulla possibile revisione della legge contro l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento, soprattutto l'immigrazione clandestina, nota come Bossi-Fini. Poi ci sono le vicende interne al PDL dopo appunto questa settimana che ha visto la fiducia al governo e lo strappo, per così dire, tra i falchi e le colombe, e infine la decisione del cavaliere Silvio Berlusconi di chiedere l'affidamento ai servizi sociali per scontare la pena, decisione che è stata anticipata dal suo avvocato. Allora vediamo quali sono le scelte che hanno fatto i diversi quotidiani. Il Corriere della Sera sceglie il nuovo PDL, qualche giornale lo titola il PDL 3.0, sfida per la guida del PDL è il titolo del quotidiano di Via Solferino. Fitto dice ad Alfano: azzerare le cariche, voglio il congresso. C'è un certo tumulto interno quindi nel nuovo partito che si va delineando, o comunque nel partito riformato, rivisto, che si va delineando. E poi, sempre nel titolo, al di sopra, caso Berlusconi, l'avvocato Coppi, in settimana la richiesta per l'affidamento ai servizi sociali. Sempre sul Corriere della Sera, l'altro tema forte della giornata, la legge Bossi-Fini. Piano per cambiare la legge Bossi-Fini, iniziativa parlamentare, il governo ci pensa. E poi riferiscono appunto gli inviati in questo richiamo della prima pagina: parlamentari italiani sgomenti si aggirano per Lampedusa, sgomenti ma determinati, sanno che può venire anche da loro la via d'uscita a una situazione ormai insostenibile. Tre proposte per il governo Letta: la prima è abolire il reato di clandestinità, la seconda spostare la richiesta di asilo nei paesi di transito, e infine l'ONU a decidere chi ha diritto all'asilo politico. Questo sul Corriere della Sera, che poi completa, per così dire, la prima pagina con la vittoria ieri della Roma sull'Inter, Roma irresistibile, Inter travolta, e con la rubrica di Aldo Grasso dedicata allo scrittore Harry De Luca, oramai forse più noto per le sue posizioni in OTAV. Sulla vicenda naturalmente torna con ampio spazio anche La Stampa, il quotidiano torinese, che naturalmente per prossimità geografica privilegia questi temi legati ai Notav. La Stampa ospita un'intervista al ministro Lupi che annuncia il sostegno fattivo del governo alle imprese che sono state, come sapete, anche minacciate e intimidite con atti vandalici proprio in queste settimane. Allora, La Stampa però dedica il suo titolo principale a una lunga intervista che il suo vice direttore Gramellini ha realizzato con Matteo Renzi. Renzi con Letta ho chiarito, lui più forte, con me segretario. Intervista al candidato alla leadership del PD: il cavaliere mi fa rabbia, ha detto a Gramellini, tra le altre cose, ha cambiato tutto e non la politica. E poi, sempre dalla prima pagina della Stampa, per questa intervista, lunga intervista a Renzi, che occupa le pagine 2 e 3 del quotidiano torinese, queste dichiarazioni ancora di Renzi: sono ambizioso ma non smanio per andare al voto, se Enrico durerà ancora 10 anni farò dell'altro, allora avrò l'età che lui ha adesso, il mio non sarà mai un partito con la matita rossa per fare le pulci al governo. Come richiamo in più in piccolo a questa grande intervista a Renzi, vediamo anche un ritorno sulla vicenda del nuovo PDL, del rinnovamento o del travaglio interno al PDL, come preferite chiamarlo. PDL tra falchi e colombe, spuntano i lealisti di Fitto, la nuova corrente che chiede il congresso subito, l'obiettivo è sbarrare il passo ad Alfano. Sempre sulla prima pagina della Stampa l'annuncio della morte ieri di Carlo Lizzani, regista suicida, 91 anni. Le pagine interne dei giornali, non solo le prime pagine, sono piene di particolari, di dettagli, di resoconti sull'attività del grande regista. E poi però la grande foto della Stampa in prima pagina torna sulle vicende di Lampedusa. A Lampedusa rabbia, strazio e polemiche. Indagati indagati i superstiti, il PM dice è un atto dovuto, accuse sui ritardi nei soccorsi, le avete sentite anche appunto riferite nei servizi del giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa, e Parigi che chiede l'intervento dell'Unione Europea. Questo sulla stampa, mentre sul Messaggero il titolo principale è proprio dedicato alla vicenda di Lampedusa. Migranti indagati, i superstiti accusati del reato di clandestinità. Nel relitto 200 corpi. Parigi chiede una riunione urgente dei paesi UE, e poi le polemiche sui ritardi nei soccorsi. I pescatori contro la capitaneria. 50 minuti di ritardo filmavano invece di salvarli. A centropagina sul quotidiano romano, Berlusconi ha scelto i servizi sociali per scontare la pena. L'avvocato Coppi, che è appunto avvocato di Silvio Berlusconi, ha reso nota questa indicazione, non ancora la decisione operativa, ma la decisione è stata presa, sarà confermata in settimana quando, appunto, come annuncia anche il Messaggero, sarà presentata la richiesta. E Alfano, che dice che chiede un patto di coalizione sulla manovra. A centropagina, grande foto della Roma in festa, c'è solo la Roma, settima vittoria di seguito, travolta anche l'Inter. Questo dalla prima pagina del Messaggero. Poiché siamo abbastanza in tema di Bossi Fini, vediamo la Padania. Come sapete, la Padania, organismo legato direttamente alla Lega, quindi sotto accusa, nel mirino proprio in questi giorni di polemiche sulla Bossi Fini, e infatti la Padania dedica diverse pagine alla legge sull'immigrazione che porta appunto il nome dello storico fondatore della Lega Nord. Bossi Fini, la gente vota ancora sì, è il titolo che campeggia sulla prima pagina. Perché questo titolo? Perché appunto c'è stato un flop, ricorda la Padania, dei referendum dei radicali per l'abolizione del reato di immigrazione clandestina e per lo sganciamento del contratto di lavoro dal permesso di soggiorno. Non sono state raggiunte per questo referendum le 500.000 firme necessarie. Mentre a Lampedusa infuriano le polemiche sui soccorsi, la Francia sollecita una riunione a livello europeo sull'emergenza. E nelle pagine interne, sempre sulla Bossi Fini, si spiega quanto alle polemiche per cui appunto chi poteva soccorrere, che avrebbe potuto soccorrere i migranti, non è intervenuto per timore di essere poi indagato a sua volta, dice, spiega un articolo nelle pagine interne, quanto all'accusa di favoreggiamento per chi soccorre i naufraghi, dal Carroccio fanno notare che la legge dice tutt'altro. È vero infatti che l'articolo 12 punisce chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, ma stabilisce anche nel secondo comma dello stesso articolo che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. Questo ricorda la Padania, questo appunto della possibilità poi di essere come dire incriminati per un atto di invece di umanità, cioè quello di soccorrere i naufraghi, è uno degli aspetti polemici della Bossi Fini. Ancora altre pagine sulla Padania sono dedicate appunto alle quelle che vengono chiamate le colpe della Bossi Fini e quelle degli accoglienti tra virgolette, anche un editoriale affidato alla penna di Max Ferrari su questo tema. Restiamo sulla Bossi Fini con Repubblica, la prima pagina di Repubblica come titolo principale, Berlusconi chiede andare ai servizi sociali, ma un'intervista al procuratore nelle pagine interne realizzata da Alessandra Zinitti spiega che ai turisti e ai pescatori che all'alba di giovedì si sono fatti in quattro per afferrare le braccia disperate che chiedevano aiuto, potrebbe anche arrivare un avviso di garanzia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quelli invece che alle 3:30 mezza del mattino. Hanno girato attorno al barcone maledetto facendo finta di non vedere per evitare guai. Dovranno solo rispondere alla loro coscienza. E poi Akhedrat, che è stata strappata alla morte quando era già allineata tra i cadaveri sul molo di Lampedusa, lo Stato potrebbe invece chiedere anche 5.000 euro, la multa prevista per chi mette piede sul suolo italiano da clandestino. E questo poi spiega appunto Repubblica, spiega Alessandra Ziniti parlando con il PM, in realtà è una sorta di atto dovuto dalla legge. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa, ancora un augurio di buona domenica da Mauro Meazza, grazie a Carmelo Lauricella che in regia consente tutto questo, consente con la pulsanteria complessa della regia appunto l'emissione e il racconto delle prime pagine dei giornali oggi in edicola. Stavamo su Repubblica nelle pagine interne prima di ascoltare le previsioni del tempo, ahimè non bellissime per oggi. Repubblica in prima pagina dedica ampio spazio a Berlusconi. Berlusconi andrà ai servizi sociali, è quanto ha detto appunto l'avvocato Coppi, l'annuncio dell'avvocato del Cavaliere, che deve evitare gli arresti domiciliari. E poi Lega, sempre il quotidiano fondato da Scalfari, Lega la vicenda di Berlusconi alle vicende interne al PDL. Quagliariello che ha detto, il ministro Quagliariello che ha detto: voglio un partito aperto a UDC e Scelta Civica. Coppi, la richiesta è pronta, decadenza, scontro sul voto palese al Senato. Chiedo scusa, sempre sulla prima pagina di Repubblica, la Francia che chiede un vertice europeo per i migranti e poi Letta che ha dichiarato: valuterò le modifiche alla Bossi-Fini, legge su cui appunto si sta discutendo animatamente dopo la tragedia occorsa a Lampedusa. Sempre su Repubblica e per completare quanto vi segnalavo prima, cioè l'intervista di Alessandra Ziniti al PM, spiega appunto l'articolo: i PM procedono con l'iscrizione al registro degli indagati per il reato di immigrazione clandestina per 155 profughi, e dice Fonzo, Ignazio Fonzo, che è procuratore aggiunto: così come facciamo con tutte le altre decine di migliaia di persone che dal 2009 sono arrivate in Italia, non possiamo che applicare la legge. Ogni volta chiediamo ai giudici di pace competenti l'archiviazione di queste posizioni, ma non la otteniamo, perché dovremmo essere in grado di dimostrare per ciascun migrante perché ha deciso di venire in Italia. Siamo dunque obbligati all'imputazione coatta e i processi si concludono con le condanne alla pena pecuniaria di 5.000 euro, che naturalmente nessuno ha mai pagato. I paradossi non finiscono qui, prosegue l'articolo, solo per raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti del naufragio, ad esempio. Il PM ha dovuto attendere l'arrivo di un'avvocatessa di Agrigento perché l'unico legale di Lampedusa difende già il presunto scafista, quindi non può rappresentare anche chi lo accusa. Ma loro, gli uomini, le donne, i bambini che sono sopravvissuti, per la legge italiana sono indagati di un reato cosiddetto connesso con quello dei loro carnefici, di chi questa tratta umana ha organizzato. Un articolo più breve nella stessa pagina replica alle accuse sui ritardi nei soccorsi. Angrisano, comandante di tutte le capitanerie di porto, imbarcazioni insicure destinate al naufragio, e dice: non c'è stato nessun ritardo, li abbiamo raggiunti in 14 minuti. Questa appunto la replica di Angrisano. Restiamo ancora un qualche istante su Repubblica, perché vi segnalo, e qui passiamo alle questioni politiche, tra le molte interviste che oggi i giornali ospitano, come sapete la domenica, giorno spesso dedicato ad interviste e spesso interviste a politici, la Repubblica ci propone un'intervista a Epifani. Alfano, faccia i gruppi autonomi, è l'esortazione che già viene ripresa nel titolo, oppure il governo torna nel pantano. E per Letta: Letta, ora giù le tasse sul lavoro. Dice Epifani: Berlusconi ha perso, per il PD i sondaggi sono eccellenti. Di diverso parere, ma forse non potrebbe essere diversamente, il giornale invece, che riferisce di sondaggi che vedrebbero ancora in grande evidenza, ancora in vantaggio sul Partito Democratico il PDL. L'ultima rilevazione è un sondaggio che viene riportato da Il Giornale di oggi, parla di un 25-27% di preferenze per il PDL, Forza Italia 24-26 per il PD, e poi il Movimento 5 Stelle accreditato di sondaggi dal 21 al 23%. In sostanza il centrodestra sarebbe quindi in vantaggio, questa l'indicazione che viene ospitata nelle pagine dedicate a Silvio Berlusconi e al suo, la sua richiesta di scontare la pena ai servizi sociali. In queste pagine appunto ci sono anche questi sondaggi che si concludono con l'indicazione che il centrodestra sarebbe ancora in vantaggio nelle preferenze degli elettori rispetto al centro-sinistra. Questo sul Giornale, che dà come titolo principale Berlusconi appunto ai servizi sociali. Intanto arriva un'altra mazzata sulla casa, l'ecotassa provinciale, sempre nel titolo principale. E allora, visto che parliamo di tasse, parliamo di conti, diamo un'occhiata invece al Sole 24 Ore. E allarme nei comuni, bilanci in profondo rosso, già, perché queste tasse, questi prelievi vari di cui sentiamo discutere spesso anche in modo un po' confuso da giorni, non oserei dire alterni, ma probabilmente quasi tutti i giorni, si rispecchiano poi anche nelle tasse locali, nei prelievi che i comuni devono applicare, sono in qualche modo costretti ad applicare per far quadrare i bilanci. Bilanci in profondo rosso è il titolo che richiama i servizi delle pagine interne, servizi che sono affidati tra gli altri a Gianni Trovati, Angelo Busani e a Guglielmo Saporito. A Roma c'è un deficit da 864 milioni, Milano ne cerca 500. I conti nei principali comuni vedono piazzata male anche la città di Napoli, 861 milioni sono gli aiuti statali già ricevuti da Napoli per evitare il dissesto e per pagare i fornitori. E poi un richiamo per la settimana finanziaria che si aprirà domani, i mercati che vanno al test del debito USA. Nelle ultime sedute i volumi a Wall Street sono infatti crollati di un terzo e sono in difficoltà i big della difesa. Tutto questo deriva da questo shutdown, da questo blocco che c'è stato per quanto riguarda il bilancio pubblico, ha provocato appunto anche la messa in mobilità, per usare un termine un po' italiano, del personale amministrativo statale, e questo comporta appunto anche le tensioni sui mercati. Lo scontro sul budget infatti è pure richiamato in questo servizio dedicato ai mercati in prima pagina. Torniamo invece ai conti di casa nostra, dove più che di shutdown in qualche caso bisognerebbe parlare di default. Milano, c'è una grande tabella, pagina 3 del Sole 24 Ore, Milano ha 500 milioni da trovare, c'è già un progetto della Giunta che aumenta l'addizionale IRPEF e porta al massimo l'aliquota IMU sull'abitazione principale, la mossa però vale solo 110, si fa per dire solo, 110 milioni di euro. Roma 864 milioni, la montagna da scalare, la definisce la tabella che accompagna gli articoli di Gianni Trovati, e a Napoli 861 milioni che sono aiuti che però vanno restituiti alla Cassa Depositi e Prestiti. A Catania non va meglio, 528 milioni la somma da ripianare con il piano di rientro. A Genova pure ci sono 35 milioni di perdita d'esercizio per quanto riguarda l'azienda dei trasporti. Infine a Palermo 2 milioni e mezzo di perdita media mensile negli ultimi 10 anni da parte di AMIA, la società municipalizzata appunto di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da Genova a Palermo, società in default, infatti, si legge nel lavoro di pagina 3 sul Sole 24 Ore. E poi sempre nelle pagine interne del Sole 24 Ore, quanto sentivate annunciare dalla collega Valentina Furlanetto nel corso del giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa, le ipotesi di lavoro sulla legge di stabilità, dovremmo vederla tra la prossima settimana e quella successiva. 2 miliardi per tagliare la service tax, l'articolo è di Marco Mobili e di Dino Pesa. le cuneo fiscale, il governo punta a una dote da 4-5 miliardi. C'è un'ipotesi di una tranche unica per i lavoratori. Naturalmente molte delle incognite si concentrano sulla cosiddetta service tax, cioè questa tassa che dovrebbe andare a superare l'IMU e ad articolare, anche ad inglobare, i prelievi oggi affidati alla TARES, alla tassa appunto sui rifiuti. Questo il lavoro del Sole 24 Ore nelle pagine interne. Abbiamo ancora, direi, un minuto prima di lasciare la linea alle informazioni sul traffico, e allora, visto che dobbiamo andare a parlare di traffico, vi segnalo una notizia in un certo modo carsica, perché qualche mese fa l'avevamo già trovata sui giornali. Si tratta del calo di interesse per la patente da parte dei giovani, un fenomeno che era stato riferito come statunitense, cioè non c'era più questa corsa alla patente da parte dei giovani americani, che però oggi il Messaggero, aprendo le sue pagine appunto di approfondimento della domenica, macro, le pagine macro, definisce i ragazzi senza patente. E dice appunto che c'è stato un calo del 50% dei neopatentati tra i 21 e i 24 anni in Italia dal 2004. Il fenomeno quindi non è solo statunitense, negli USA e in molti paesi europei l'auto non è più il sogno dei diciottenni. In primo piano. Bentornati, ancora una buona domenica da Mauro Meazza, ultima parte della nostra rassegna stampa. Stiamo un po' gironzolando qua e là tra le notizie principali, notizie che i quotidiani di oggi hanno deciso essere le principali. Tra queste, non proprio per decisione unanime, ma diversi giornali puntano sulle questioni economiche e questioni appunto delle nuove possibili tasse, dei possibili rincari o dei tagli invece che potrebbero arrivare di qui ai prossimi mesi, di qui al 2014. E così ad esempio la scelta di Libero, che parla dell'ora dei tagli di governo, perché si punta al salario garantito, IVA, TARES, il PD tirerà a sinistra il Premier, ma il nuovo PDL lo fermerà, così l'auspicio di Libero sulla prima pagina. E poi i tagli di partito, perché questo riguarda proprio il centrodestra. Il centrodestra sarà rifondato, Silvio resta come padre nobile, ma la squadra cambia. Questo quello che riferisce Libero già dalla prima pagina, mettendo insieme quindi vicende economiche e vicende politiche. Nasce il nuovo PDL di Alfano, come sapete sulla costituzione o meno di un nuovo gruppo c'è un certo tormento interno, Libero nelle pagine interne è determinato. Nasce il nuovo PDL di Alfano, il vicepremier accelera nella rifondazione azzurra, via i Falchi, Santanché, Verdini e Bondi e Pezzone, turnover alla Camera, Fitto diventerà capogruppo al posto di Brunetta. Queste le anticipazioni, le indicazioni che Barbara Romano presenta su Libero per quanto riguarda il nuovo PDL, quel PDL che qualche giornale appunto chiama il PDL 3.0, appunto per distinguerlo nelle varie fasi, dalla sua fondazione, poi l'esperienza invece con AN e adesso quella nuova fase che si è aperta con il voto di fiducia di mercoledì e anche la decadenza di Silvio Berlusconi decisa in giunta venerdì. Cambiamo decisamente argomenti, tornando sul Corriere della Sera. C'è una notizia che occhieggia, si direbbe, qua e là, tra le pagine, tra le prime pagine e le pagine interne. In Marocco due adolescenti sono stati arrestati perché hanno messo su Facebook, sul social network Facebook, una foto in cui si baciano. Ecco, per baciarsi e pubblicare la foto su Facebook, scrive ad esempio Viviana Mazza sul Corriere della Sera, altrove è un aggiornamento di stato, significa appunto uno ha aggiornato il suo stato, ma in Marocco è un crimine. Due adolescenti di 14 e 15 anni sono stati arrestati per violazione della pubblica decenza a Nador, nel nord-est del paese. Con loro è stato anche fermato l'amico che li ha fotografati e appariranno venerdì davanti a un tribunale minorile. La collega Mazza ricorda che non è neppure la prima volta, perché era già successo in Tunisia a gennaio che una coppia fosse condannata a 2 mesi di carcere per un bacio. Allora, sulle vicende della come dire, privacy o non privacy in rete. Vi segnalo quest'oggi su Nova, come sapete tutte le domeniche il Sole 24 Ore presenta non solo il nostro inserto culturale, appunto la domenica del Sole 24 Ore, ma anche le pagine di Nova 24 che sono dedicate all'innovazione e alla tecnologia. L'articolo di apertura di queste pagine è affidato a Luca Tremolada e dice proprio: la privacy è negoziabile. Il privato è pubblico, sui social media non esiste anonimato, ma il diritto a tutelare l'identità non è morto, anzi è più vivo che mai. Riferisce Tremolada di un'iniziativa curiosa di un distretto scolastico californiano che ha deciso di monitorare i comportamenti degli studenti sui social network, appunto su Facebook, come è accaduto, come la vicenda che ha visto protagonisti, sfortunati protagonisti, due ragazzi del Marocco che si vedono rinviati davanti al tribunale minorile per avere messo una foto in cui si baciano. Però senza arrivare, immaginiamo, a questo tipo di comportamenti, c'è un distretto scolastico a Glendale, è una cittadina nella contea di Los Angeles, che appunto ha deciso di controllare l'attività dei suoi studenti sui social network, perché ufficiosamente dice vuole evitare che si mettano in cattiva luce, magari compiano anche dei reati, come possono essere quello di calunnia o altro di bullismo, altri tipi di insulti comunque perseguibili. Formalmente, quindi, scrive Tremolada, è un sorvegliante ben pensante, però spiega appunto, commenta un professore, Antonio Casilli, specializzato di Digital Humanities: se per educare i giovani a difendere la privacy l'amministrazione scolastica deve spiarli, beh, allora siamo di fronte a un paradosso. E da qui in poi Tremolada argomenta, non abbiamo ora il tempo di riproporvelo per intero, ma vi segnalo appunto questo articolo sul Sole 24 Ore di oggi. Dicevo, Tremolada argomenta sulla cambiamenti della nozione di privacy. La privacy, tutto sommato, che si diceva morta, finita con appunto l'era dei social network, oppure la privacy che forse può essere ancora difesa, tutelata anche in questa epoca di social network. Chiudiamo con una segnalazione dalla Gazzetta dello Sport, doverosa quanto per me personalmente dolorosa per la Roma. I giganti è il titolo appunto della Gazzetta Sportiva oggi in edicola. Totti e la Roma travolgenti, 3-0 all'Inter, partita capolavoro del capitano, doppietta e 300° gol in carriera. Non c'era il rigore del 2-0, dice la Gazzetta. Vabbè, mi sembra che questo però non dia modo di lamentarsi più di tanto di fronte a un risultato del genere. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Noi ci risentiamo domani mattina nel corso della rassegna stampa guidata da Alessandro Milan. Buona domenica.